Merito a questi ragazzi che sono stati straordinari, sotto tutti i punti di vista hanno fatto una stagione bella, intensa, faticosa, però sono sempre stati sul pezzo. Questo mi è piaciuto tanto perché dalla prima giornata abbiamo tirato, diciamo, il gruppone. Ha paura di perdere il professionista o ci mette la mano sul fuoco e Conte ci sarà? No, ci metto la mano sul fuoco, questo con tutto il rispetto che va al professionista, che conosco l'uomo. Tutti convocati di Carlo Genta. C'era un ragazzo che voleva fare il calciatore una volta e che, se fosse stato un calciatore, avrebbe ascoltato nelle cuffiette gli End of Fashion, gruppo power pop australiano. Io aspetto di un ingaggio, cioè spero che di esordire in Serie A, perché insomma questi benedetti 5 minuti in Serie A farebbero molto piacere. Potrei fare anche una plastica a Casablanca e diventare donna, perché dopo non c'è di niente di più che fare un gol in Serie A. Voleva fare il calciatore per guadagnare molti soldi e realizzare il suo sogno. Gianni Gnocchi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ogni persona sana di mente compra la Gazzetta dello Sport. Poi facciamo il censimento delle persone sane di mente che comprano la Gazzetta dello Sport e legge per prima cosa il rompipallone. Ad esempio oggi Romero dalla Sampdoria si è giustificato per l'erroraccio del terzo gol dell'Udinese. Avevo Muriel al fantacalcio. Adesso possiamo leggere il gene dello sport in libreria. Ciao Gene. Ciao. Ciao. Senti, io so che tu volevi fare il calciatore per fare un sacco di soldi, giusto? No, no, no. Io volevo fare il calciatore perché proprio... Cioè no, in realtà l'ho fatto, sì. Volevo farlo a livello professionistico perché era l'unica cosa che sapevo fare. Io a calcio giocavo, mi piaceva, poi giocavo bene, però purtroppo ero un po' lento e quindi ho sempre bazzicato sia via minore, però se mi dicessero che cosa avresti voluto fare, avrei sempre detto e dirò sempre calciatore. Il calciatore anche per realizzare questo tuo sogno qui. Ascolta. Sì, noi abbiamo appartamenti e ville anche ad Eraclea. Eraclea si trova tra Jesolo e Caule, sul Veneto. Poi abbiamo i nostri grandissimi lidi comachesi, i sette le perle di Comacchio, uno più bello dell'altro, dove appunto noi abbiamo tantissime case, tantissime ville a vostra disposizione. Una telefonata non costa niente. Volevi comprare la villa lì di Comacchio, di la verità? No, in realtà io volevo un contatto con Tomasi Casi perché lui è il mio idolo e quindi quando io parlo a Tomasi di Tomasi Casi fermo tutto dove sono, cerco sempre di tornare a casa per non perdermi nessuna sua telepromozione, soprattutto quelle quando c'era Daniele Piombi e Giuliana, sì. Perché è imperdibile, quindi... Cioè, è il mio idolo in assoluto, quindi io volevo prendere una unifamiliare col posto macchina e barbecue soltanto per poter conoscere lui, ecco. Sì, figurati che io ho convinto una volta mio cognato a comprare i coltelli Miracle Blade, tanto era appassionato, però era appassionato di coltelli, non di chi li vendeva, perché Tomasi veramente, quando tu non, voi avete mandato una registrazione ma non l'avete mai visto dal vivo. No, confesso allora, quindi vi manca il 50%. Senti, ma cosa c'è in questo gene dello sport? Beh, in questo genere dello sport ci sono sono 10 anni di rubriche di Sports Week, però sì. Sono le domande più assurde che mi hanno fatto i lettori, perché all'inizio siamo partiti con domande così inventate ovviamente, poi invece il gioco è diventato manifestamente, cioè una gara, chi faceva la domanda più assurda e chi rispondeva ovviamente sì, più assurdamente. E quindi ovviamente poi 10 anni fa le cose, cioè, alcune domande sono ovviamente state riscritte perché avevano perso di attualità, e ne è venuto fuori un libretto secondo me molto divertente sia sul calcio che più su tutto, sullo sport in generale. Certo, vabbè, quelle sono imperdibili e nessuno di quelli che seguono lo sport se le perde. L'hai scritto a cura di Silvia Guerriero, che ho conosciuto molti anni fa, ma è sempre carina? È molto carina. È sempre così molto carina. Carina, però si è sposata, ha avuto 2 figli, quindi qualche cedimento strutturale l'ha avuto. Quindi non posso più contattarla. No, tu puoi contattarla però con i dovuti modi. Con i dovuti modi. Ma, esatto, no, invece gli ascoltatori mi contattano senza i dovuti modi, caro Gene. Io mi appello all'avvocato che è in te, anch'io ho studiato legge e insomma tutte le volte che ieri ha vinto lo scudetto la Juventus e si fa ovviamente la conta degli scudetti, io dico che quando ricordo quel vecchio principio del codice di procedura civile secondo cui quando l'avvocato parla con il giudice fuori dalla corte il processo è nullo e non riescono mica a capirlo, mi coprono di insulti. Lo so, ma questo è un problema, perché la legalità, cioè, ormai è completamente fuori moda, se non esiste proprio più, quindi bisogna riaggiornare completamente il codice, però cioè, gli scudetti della Juventus sono 31, comunque, voglio dire, per loro sono 31. E per te 20, quanti no? sono? Per me sono per la questura sono 29. Per la questura sono 29. Sì. Secondo le stime della questura sono 29. Sì. Senti, ma qual è il valore assoluto dell'Inter per chi fa il tuo mestiere? Il valore assoluto dell'Inter adesso è Branca più Ausilio sì, più Stramaccioni sì, uguale? Cioè, uguale a Vanna Marchi. L'ultima cosa che ti chiedo è questa: Seedorf al Milan, qual è il valore assoluto di Seedorf al Milan voluto dal capo che non ne può più di quel livornese comunista? Lui ha voluto Seedorf perché ha una bellissima famiglia e quindi incarna un po' il suo valore familiare, cioè una bella moglie, dei figli, e quindi diciamo quello che è un po' il credo che ha sempre avuto Berlusconi, cioè insomma, una famiglia morigerata, cattolica, senza diciamo grilli per la testa, un po' tutti i principi a cui si è uniformato Berlusconi in tutti questi anni, che ne fanno un esempio di specchiata virtù, ecco. Senti, adesso io leggo il Gene dello Sport e poi quando trovo qualcosa che mi fa lacrimare gli occhi ti richiamo, va bene? Va bene, quindi sto in linea. Stai lì. E ti rimando gli End of Fashion sempre che tu non abbia cambiato gusti musicali. No, perché non? Sì, ma perché questo qui è l'album, non c'è il pezzo, quello là, il singolo. Non lo so, questo. Ma voi chi ve le fa le ricerche musicali? Non lo so. Red Ronnie? Le fa Franco Piantaneda, che è l'autore di questo programma, e quindi te la devi prendere. Lui ha cercato su internet, ha detto prendiamo una cosa, ma gli End of Fashion hanno subito due periodi, cioè hanno avuto i due periodi, perché hanno cambiato il cantante. Ah, hanno cambiato il cantante? Sì. E allora dici tu la canzone, così la prossima volta... La canzone è The Game, da The trovare. Game. The allora, Game. Ragazzi, svegliatevi. Era il singolo, quello che ha spopolato in Australia. Vabbè, ma voglio dire, però non vi si può... Non, oh, ragazzi, c'è cioè, proprio bisogna dirvi tutto. Ecco. A noi bisogna dirci tutto, Gene. Bisogna dirvi tutto, proprio. Noi diciamo invece di il Gene dello Sport e poi ci risentiamo. Quando più o meno quando ti fai vivo tu? Mi faccio vivo io e ti faccio le pulci, ok? Però a me non piace quando dico ti faccio vivo io, poi ti faccio parlare con Gandolfi, sai, sono quelle formule. No, allora fatti vivo te. Tutti i giorni tutti convocati con il numero privato. Noi telefoniamo col numero privato così non ci riconosce nessuno, se no finiamo tutti. Siamo intercettati tutti i giorni, Gene. Come faccio io fammi vivo. No, ma perché qua ci intercettano, poi ti diamo un numero, il numero col telefono rosso, capito? Quello non intercettato. Va bene, comunque allora tu ti fai vivo, allora rimaniamo così, tu ti fai vivo quando ti viene da lacrimare. Va bene, io mi faccio vivo quando mi viene da lacrimare. Però mi dici anche la pagina. Eh beh, naturalmente leggo, okay. leggo quello che mi ha fatto lacrimare, questo è naturale. Va bene, ok. Ti abbraccio, ciao. Anche a voi, ciao. Un abbraccio forte, ciao. Ciao. 800 24 00 24, numero verde per intervenire a schema libero come sempre in tutti i convocati. Traffico. Io volevo un contatto con Tomasi Case perché lui è il mio idolo. Tutti convocati. Franco Piattarini, redazione, Roberto Scaltritti in regia, tutti convocati. 800 24 00 24 è il numero verde per parlare con noi ogni giorno dalle 14 alle 15 di sport e di ogni tipo di sport. Ma mi dovete dire perché ve la prendete così tanto questa storia dei 29, dei 31? Io ho ricevuto una dei messaggi terrificanti sul mio... si chiama account di Facebook personale. Lei non sa niente, come osa dire questo, come osa dire quello, ma che me ne frega, ma alla fine qual è il problema esistenziale, qual è il problema esistenziale? Francesco, Firenze, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Francesco. Va bene, convocato dalla pit lane. Dalla pit lane, è fantastico, sì. La pit lane è meravigliosa. Ciao. Ciao. Senti, io devo essere sincero, simpatizzo un po' per Lorenzo, anche se non tifo. Però sì, nonostante come fai? Io tifavo Loris, però diciamo amo le moto, sono motociclista, mi piace molto la guida di Lorenzo, sinceramente. E io anche, ma Lorenzo non ce la faccio. Vabbè, io ce la faccio. Okay. Io, indipendentemente un po' diciamo dall'entrata che ci ha provato giustamente Marquez, io devo dire ben vengano piloti come Marquez, che questo ragazzino il gas... Marquez mi fa impazzire, ecco, io ti farei per lui, se proprio devo tifare per uno straniero, io poi tifo Valentino Rossi dichiaratamente, sì. Quindi non ce la faccio a tifare per Marquez o per Lorenzo o per nessun altro, tifo Valentino Rossi, e poi mi prendo le mie responsabilità. Cosa vorresti chiedere così, se tu potessi, al papà di Valentino Rossi Graziano? Cosa vorresti chiedere? Niente, io non gli chiederei niente. Riconosco la grandezza di Valentino, che veramente non ci sono aggettivi per descriverlo. Niente, ringraziarlo e basta, che ha messo al mondo un figlio e con del talento innato, basta. Questa mi piace. Non è finita, là davanti Pedrosa sta andando a vincere, qua dietro però ancora Pagar, attenzione, ai, qui un po' distante, ma vediamo l'ultima curva, adesso attenzione, curvone a destra, e poi si va qui, all'ultima staccata, fuori il piede, dentro, va largo, no! Si prendono, no! Attenzione, fuori Lorenzo, attenzione, uguale, la spallata è uguale a Rossi Gibernau, con Marquez che fa secondo e terzo Jorge Lorenzo, ci ha provato fino all'ultimo. Ha fatto un errore per non chiudere la porta, no? Perché pensava che dopo l'errore che ha fatto nella curva 6, pensava che era troppo lontano, no? E che non mi prendeva, però finalmente è successo quello che è successo, no? Non voglio parlare molto perché adesso sono in callo e quando sei in callo parli cose che dopo magari ti arrepientes, no? Sì, la mia intenzione non era posarmi, no? Era sul passarlo, ma sì che quando ho provato la prima volta sì che là è andato troppo lungo, ho visto e ho lasciato un po' il freno perché sennò era troppo a rischio. E dopo all'ultimo giro ho imparato, no, dal video con Valentino, con Gibernau, anche Pedrosa qualcuna volta l'ha fatto là, di fare questo sul passo all'ultimo giro. Ho provato di fare il 100%, mi dispiace per Jorge perché è un grandissimo pilota, ma ma penso che è stata un'azione di gara, no? Che tante volte è successo là. Io non ho dormito per delle settimane aspettando questa corsa, perché Graziano Rossi mi aveva detto aspettiamo Erez. Ciao Graziano. Ciao, ciao. Senti, questa spallata, questa botta, si è fatto tanto dire di quel duello tra Valentino e Gibernau, è vero o no? Cioè, è vero che cosa? Scusami. È vero che questo duello Marquez-Lorenzo ha ricordato sì. Il duello tra Vale e Gibernau? Sì, assolutamente. C'è stata una piccola differenza, secondo me, che come Jorge ha dichiarato lui stesso dopo la gara, purtroppo a quell'ultima curva ha fatto un piccolo errore, lasciando troppo spazio a Marquez all'interno della curva, perché non si era accorto che era così vicino. Quindi purtroppo c'è stato da parte di Lorenzo questo errore, e credo che l'unica differenza dalla storia Valentino-Gibernau con Gibernau sia questa. Valentino invece è entrato, anche se c'era meno spazio, con un pochino più di prepotenza, diciamo. Questo forse, come diceva ieri Vale in televisione, è giustificato dal fatto che da Valentino c'era la lotta per il primo posto, e qui invece era soltanto per il secondo, sì, diciamo. Sì. Senti Graziano, l'hai sentito Valentino? Come sta? Quali sensazioni ha in questo momento, dopo Erez, dopo le prime gare, coi migliori ma non ancora il migliore come sempre? Lui non l'ho sentito, no. La sensazione che ho io è che c'è da fare un ultimo step ancora, che credo che Valentino sia in grado di farlo nelle prossime una, due o tre gare. Sì. E che dipenderà soprattutto dall'andare in temperatura prima, cambiarsi il termostato nel cervello, sì, per andare in temperatura prima e girare subito forte appena partiti, e soprattutto riuscire a mettere a posto la moto prima che in gara. Qui questa gara addirittura nemmeno la domenica mattina nel warm up, ma addirittura la moto è stata a posto in gara. Quindi chiaramente anche questo poi fa sì che i primi giri, quando tu la moto non sai esattamente com'è, i primi giri stai un po' più calmo, e oggi i primi giri non si può stare calmi. Ma questo però non si poteva neanche prima, voglio dire, bisognava andare forte da subito anche prima. Però Valentino, ricordiamoci che viene da un periodo sfortunatissimo, e secondo me sta già facendo dei miracoli. Avere fatto la prima gara in quel modo e sì, girare sì, forte come i primi, magari non subito, manca un ultimo passettino avanti. Leggo che non gli piace tanto la ciclistica. Della Yamaha? Sì. No, questo non è vero. La Yamaha, la ciclistica è sempre stata il forte di questa moto, è sempre stata la ciclistica. Non riesce a metterla a posto in tempo, perché ancora non c'è una conoscenza talmente approfondita per arrivare a delle soluzioni ottimali presto, come capita per fortuna a Lorenzo, che invece Lorenzo ci arriva abbastanza presto a mettere a posto la moto. Però Lorenzo la guida da 3 anni e Valentino la guida da 3 gare questa, quindi diamogli un attimino di tempo, credo. Glielo diamo assolutamente. Tu intanto continui a non venire in moto con me. Hai deciso che in moto con me non ci vieni. Io? Sì, me l'hai detto l'altra volta, io in moto con te non ci vengo. E perché dovrei venire in moto? Ma io voglio andare a fare il TT sull'isola di Manna. Vieni con me. Tu non sei a posto. che non sono a posto lo so da una vita. Tesoro, non sei a posto. io spero che tu venga a girare al ranch, dove ti diverti altrettanto, sì, come al TT, e sì, però torni a casa. E però non rischio la pelle. Torni a casa sicuramente con la pelle intatta. Ciao Graziano, ti voglio bene sempre. Grazie. Ci sentiamo presto, grazie. Ciao. Te, ciao. Ciao. Tutti convocati. Il tesoro non sei a posto. Franco Piantarini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia, e sottoscritto che non è a posto, Carlo Genta. Allora, voi mi, insomma, io vi sopporto tutti i giorni che fate il tifo, no? Che fate il tifo per le vostre squadre, e vi rispondo anche con tutta la cortesia che posso, perché mi piace parlare con voi, è la cosa più bella del mondo. 800240024, però sopportate me quando dichiaro per una volta il mio tifo per Valentino Rossi. E allora ritorniamo agli sms sull'evasione fiscale, su tutte queste stronzate, che non è una stronzata, però non è la pista, io guardo alla pista, poi se vogliamo fare delle storie, della dietrologia, eccetera eccetera, facciamola pure. Io tifo Valentino Rossi sulla pista, e allora permettetemelo. Allora sto con Andrea di Livorno che scrive: Valentino non è più quello dei tempi migliori, altrimenti questi si rimangiava merenda. Comunque sia, tiferò Valentino per tutta la vita, anche se dovesse arrivare ultimo. Mi fanno un po' schifo quelli che adesso lo chiamano Rossi, mentre prima sembrava fosse loro cugino, telecronisti e qualche giornalista incluso. Scrive Andrea da Livorno. Nicola da Belluno, buongiorno. Buongiorno. Dica. La trasmissione è bellissima. Pensavo di dover fare un intervento per riportarvi sulla Terra, sul pianeta Terra, e invece no, stiamo bene, stiamo bene sulla Luna. Ecco, allora rimaniamo sulla Luna. Bisogna parlare di Chicago Bulls. Cioè, oh, lo sport, grande, sì. Solo i Chicago Bulls. Per quello che hanno fatto nella serie con Brooklyn, per quello che hanno fatto stanotte, anche se purtroppo di stanotte non ho visto assolutamente nulla, ma gara 7 con Brooklyn proprio. Ma gara 7, ma l'intera serie, perché quella, ma l'intera serie, perché quella, sì. quella partita in cui Nate Robinson, che è un pazzo scatenato, se Graziano Rossi mi dice tu non sei a posto, le assicuro che Nate Robinson è meno a posto di me, perché è un giocatore che è in grado di farti vincere e perdere qualunque partita. E allora in quella partita lui fa 23 punti nel quarto periodo, e a un punto dal record di Michael Jordan in un quarto periodo con la maglia Bulls, ribalta una partita in meno di 3 minuti e loro vincono dopo 3 overtime. Quindi l'intera serie, no Nicola? Sì, l'intera serie, ma questo dovrebbe essere, cioè, perché dico l'evento sportivo della settimana? Perché è vero, la Juve ha vinto lo scudetto, tanto di cappello, ma ricordo ai miei amici juventini che a novembre piangevano lacrime amare, tanto che un loro tifoso deve aver twittato con Marchisio: per Natale ci facciamo una scorta di fazzoletti. Invece ci stanno Bulls, gli manca il giocatore fondamentale, in gara 7 gli mancano altre due pedine, sì. Questi mica stanno lì a piangersi addosso, tirano fuori proprio tutto. Ma a me sembra che nemmeno la Juventus si sia più di tanto pianta addosso. Mi sembra che la Juventus abbia controllato per distacco questo campionato, anche ma quando il Napoli è arrivato parte del campionato, sicuramente. Cioè all'inizio, teniamo conto che c'è una differenza fondamentale: quest'anno hanno giocato in Europa, l'anno scorso no. C'è un'altra differenza fondamentale, che è un segreto di Pulcinella, che loro nel periodo natalizio hanno caricato la preparazione e subito dopo il periodo natalizio hanno pagato questo carico di preparazione, però sono sempre stati in controllo, quindi non mi sembra né che si siano lacrimati addosso né che abbiano avuto grossi problemi nel portare a casa lo scudetto, che secondo me hanno vinto quella notte a Napoli, quindi... quanto ai playoff NBA, sicuramente questa gara 7 con Bellinelli che fa 24 punti, non capita tutti i giorni. L'evento sportivo della settimana probabilmente è questo, che è per i così, per, forse per gli aficionados, forse non per tutti. Nella notte, intanto, e tra poco ne parliamo, Chicago, giusto per continuare la striscia, ha vinto anche a Miami gara 1 del turno successivo, rubando il fattore campo a Miami. Serie secondo me segnata, però intanto, già che c'erano, la squadra che gioca meglio allenata secondo me dell'intera NBA ha vinto a Miami. Grazie Nicola, un abbraccio. Eraldo da Napoli. Salve dottor Genta, salve. Complimenti per la trasmissione, perché è mai banale, sempre grazie, allegra. Grazie. Comunque lei ha citato quella brutta notte di Napoli, io sono un tifoso del Napoli, brutta sono d'accordo per lei, sì. Con lei, sono d'accordo con lei che perlomeno potevamo impensierire un po' di più la Juventus. Però comunque vabbè, io sono soddisfatto del campionato del Napoli degli ultimi proprio 6-7 anni. Io la chiamavo solo per... Ci mancherebbe altro, Eraldo, sì. il Napoli più di così, sinceramente, no, cosa poteva fare? Guarda, appunto. No, soddisfattissimo, i ragazzi sudano la maglia ogni domenica e quello per noi tifosi è il massimo, a prescindere, primo, secondo posto, sia la società che la squadra e l'allenatore stanno facendo cose veramente... Meravigliose. Inimmaginabili. Meravigliose. No, io la chiamavo però, volevo spezzare una lancia a favore della Fiorentina, per la partita di sapato scorso. Sì. Io volevo sapere come si fa a non vedere un calcio di rigore in favore della Fiorentina con 5 arbitri in campo, con una società come la Fiorentina che veramente io spero che vada in Champions, perché è una delle migliori squadre di questo campionato. È un calcio molto bello, sì. E a mio parere, se avevo un attaccante come Rossi che rientrava prima, secondo me la Fiorentina insidiava molto anche il secondo posto del Napoli. Volevo sapere il suo parere. Ma la Fiorentina ha un centrocampo meraviglioso, e dal centrocampo che è la fonte del gioco deriva la bellezza del gioco della Fiorentina. Su questo sono d'accordo. Sono d'accordo con lei anche sul fatto che per un certo periodo, e probabilmente anche di recente, anche nell'ultimo sabato, ha pagato qualcosa, qualche dazio arbitrale, però sono sempre dell'idea che sono cose che vanno e vengono. Io sono contro i disegni oscuri, sono contro la dietrologia, sono contro l'idea secondo cui qualcuno deve fare e qualcun altro non deve fare, quindi non, su questo non mi trovo d'accordo. Sul fatto che oggettivamente la Fiorentina abbia subito per anche un lungo periodo un vento arbitrale un po' contrario, e questo è cronaca, dietro la cronaca non ci vedo nessun dolo, però è così. Ruggero da Ferrara. Buongiorno. Innanzitutto volevo farvi complimenti alla trasmissione. Io ero un affezionato ascoltatore anche di Garanzini. Avete dato un taglio secondo me completamente diverso, però promossi a più grazie. Corti. Io sono un tifoso della Roma, anche se chiamo da Ferrara, e volevo sentire la tua opinione in merito a questa riflessione. Totti, De Rossi, sicuramente le stelle della squadra, ma sei d'accordo con me se io dico che la Roma potrà diventare una grande squadra solo quando riuscirà realmente a slegarsi soprattutto da Totti, cioè quando Totti deciderà di appendere le scarpe al chiodo veramente sarà una grande Roma? Guarda Ruggero, questo è un discorso molto interessante e molto complesso, che ci può riportare a Del Piero alla Juventus, che ci può riportare ai senatori del Milan, che ci può riportare su un altro versante completamente opposto alla vecchia guardia dell'Inter che ne ha impedito di crescere. Ci sono dei giocatori che non sono soltanto giocatori, sono dei simboli. Francesco Totti lo è nella Roma, è un fenomeno, è un giocatore per cui io stravedo. Però è molto De Rossi, vale parzialmente lo stesso discorso, però sono giocatori molto influenti sulla piazza, molto influenti sull'opinione pubblica, sono giocatori che fatalmente condizionano le scelte di ogni allenatore, sono giocatori simbolo e dunque fino a quando ci sono loro nessun allenatore, nemmeno Allegri, che andrà alla Roma. Io ne sono certo di questo, perché credo a quanto scritto da Alberto Costa l'altro giorno sul Corriere della Sera, così come credo e sono anzi convinto che Seedorf sarà l'allenatore del Milan. Questi giocatori sono difficilmente così gestibili e controllabili da parte di un allenatore, e lo stesso discorso vale per la vecchia guardia del Milan, vale per Del Piero alla Juventus, vale per il nucleo degli argentini all'Inter, tanto che in maniera molto impopolare ho detto l'Inter per crescere deve così emanciparsi da questa vecchia guardia argentina, con tutti gli auguri che posso fare a quel fenomeno assoluto, a quel grande uomo di Xavier Zanetti, però stiamo parlando di sport, e fino a quando l'Inter non riuscirà ad emanciparsi dalla vecchia guardia argentina, nessun allenatore avrà vita facile nell'allenare quella squadra, così come nessun allenatore avrà vita facile nell'allenare la Roma con le bandiere ancora sventolanti. Tutti convocati. Allora, abbiamo parlato prima di playoff NBA di Marco Belinelli, allora sentiamo la sua voce con Simone Sandri. Beh, Marco, c'è poco da dire, una prestazione assolutamente straordinaria dopo una gara 7 incredibile, un'altra prestazione che ha lasciato un po' di stucco. Sì, stasera sicuramente è stata una partita importante per noi, siamo andati secondo me in campo con la mentalità giusta, abbiamo giocato sicuramente in un modo molto fisico, abbiamo cercato comunque di limitare ovviamente il più possibile LeBron e Wade e penso che diciamo alla prova di squadra in cui abbiamo giocato un ottimo attacco ma soprattutto un'ottima difesa siamo riusciti a portare a casa gara 1. E nel quanto ti riguarda un'altra prestazione di grandissima solidità, grande difesa, 46 minuti e poi due triple fondamentali nel finale. Beh, sicuramente sai, stasera è stato sicuramente una partita diversa, non era Blooking, la difesa loro sicuramente hanno difeso bene, su pick and roll diciamo erano sempre pronti al raddoppio o comunque all'aiuto, quindi io ho cercato comunque di fare il mio meglio, ho cercato comunque di creare per i compagni, essere utile al rimbalzo e cercare comunque di crearmi i miei tiri. Alla fine ho messo canestri importanti, non solo io ma diciamo anche comunque grazie al momento della squadra, quindi ti ripeto, una gran bella vittoria, ma è solamente gara 1. Sarà solamente gara 1, però 93-86 sul campo dei Miami Heat e Chicago prosegue la striscia, prosegue, tiene, cavalca l'onda della gara 7 di Brooklyn. Intanto San Antonio, indovinate con chi se non Manuel Ginobili, vince 129-127 contro Golden State. 93-86 è invece il risultato della partita di Miami. Io penso che Chicago sia la squadra meglio allenata dell'NBA, ma chiedo al mio amico Davide Pessina, che non vedo da molto tempo ma ascolto spesso. Ciao Davide. Ciao Carlo, buongiorno. Io sono diventato tutto biondo e con gli occhi azzurri, non so tu, dall'ultima volta che ci siamo visti. Io sono rimasto un po' meno biondo, però gli occhi azzurri sono rimasti. Senti, bello vedere Belinelli essere dominatore. D'altra parte, da seduto è un po' difficile. Sì, è complicato. Bello perché secondo me lui ha fatto una scelta anche controcorrente, non so come dire. Era senza contratto, ha accettato l'offerta di Chicago, dove tutto sommato aveva anche tanto da perdere, nel senso che lui ha la nomea di tiratore e basta. Invece Thibodeau è allenatore che vede prima la difesa, poi la difesa, poi la difesa. E quindi, insomma, alla fine ha dimostrato di poter avere minuti importanti, si è conquistato la fiducia e il rispetto di questo grande allenatore e dei compagni proprio col lavoro quotidiano, anche facendo cose che tanti pensavano non fosse in grado di fare. Per cui direi che insomma, ne esce da stravincitore, ha avuto la pazienza di aspettare il suo momento e se c'è una cosa importante nell'NBA è farti trovare pronto quando il tuo momento arriva. Lui meglio di così non poteva fare. Certo, ma io dico che davvero, ma lo penso davvero, che Chicago sia la squadra meglio allenata dell'NBA. Beh, molto ben allenata, questo sicuramente, tipo da un attore straordinario, poi meglio, secondo me, a me piace molto anche Popovic, Mark Jackson con Golden State ha fatto un lavoro meraviglioso, però Thibodeau, voglio dire, con la situazione in cui sono, Rose fuori tutto l'anno, partite decisive adesso senza Luol Deng e senza Eric, sì, non ha fatto una piega, continua a dire no, ma abbiamo abbastanza per vincere, ha avuto ragione lui. Cioè, se per primo il tuo allenatore ti trasmette questo messaggio, tu non molli mai. Sì. E direi che questa è una cosa molto importante. Senti, ma quando... Tu ci hai anche giocato contro, ma quando finisce Ginobili? Veramente. Quando finisce questo? Veramente, ha messo sto canestrino a niente. Fra l'altro, due azioni prima, ha preso un pessimo tiro, cosa rara per lui. Subito. E la cosa clamorosa sua è che quando fa un errore devi stare tre volte più attento a lui. Sì. Perché non ne fa mai due, anzi. Recupera. Qui Golden State ha fatto l'errore di lasciarlo da solo a un secondo e mezzo dalla fine e lui li ha puniti da tre punti. Tra l'altro, la fine di una partita comunque bellissima. Sì, no, ma certo, ma è un giocatore mostruoso, ma anche perché lui usa il fisico come arma contundente e all'età che ha, e tu lo sai bene, no? Avendoci giocato contro da quando era ragazzino a Reggio Calabria, però quando era ragazzino a Reggio Calabria pesava 70 kg e aveva 19 anni. Era una molla. era una molla. Adesso, all'età che ha, usa il fisico come arma contundente e segna i canestri che contano. E questa è la cosa impressionante, no? No, ma un giocatore pazzesco, un qualcosa di speciale dentro, l'ha dimostrato in tutte le tappe della sua carriera, in Italia, a Reggio Calabria con la Virtus, le Olimpiadi, campione olimpico con l'Argentina, San Antonio si è conquistato la fiducia di Popovic, non cosa facilissima, giocando a modo suo, ed è un giocatore ormai irrinunciabile. Comincia ad avere qualche problema per l'età, però se gli lasci veramente la possibilità lui ti ammazza. Sì, c'è chi scrive: Ginobili mette la tripla decisiva, aveva fatto 5 su 20 al tiro, sbagliato il tiro della vittoria prima, Carri gli ha messo 44 punti in faccia, scrive un ascoltatore. Io ricordo all'ascoltatore che una volta ho visto D'Antoni fare 0 su 8 a Livorno da 3 punti e fare 1 su 9 per vincere, e alla fine chi ha ragione e chi ha torto? Sono quelli speciali, alla fine poi si può discutere, certo, vuol dire che hai tirato tanto lo stesso anche quando non segnavi, però poi quando segni quello che conta, vuol dire che hai qualcosa di speciale. Senti Davide, quando mi vieni a trovare? Quando vuoi, quando mi inviti, non mi inviti più. Ti invito presto e parliamo di tutto, intanto io mi faccio linciare dagli ascoltatori perché faccio questo pronostico sul tabellone dei playoff italiani. Varese-Venezia passa Varese, Sassari-Cantù passa Sassari, Roma-Reggio Emilia passa Reggio Emilia, Siena-Milano passa Milano. Uno struscio pronostico dal 78-79 e quindi io aspetto che qua sotto mi vengano a tirare le pietre, quindi ti invito presto, così tu sei grosso e magari faccio da scudo. Qualcuno sei d'accordo? Sono d'accordo, non sono forse così d'accordo su Roma-Reggio Emilia. Roma gli ha trovato una squadra molto solida quest'anno. Cioè passa Reggio Emilia se la gioca? Reggio Emilia se la gioca, ma passa Roma. Mi sembrava che tu avessi detto Reggio Emilia. No, Roma. Ah, ok, allora ho capito male io. Varese, resto, Sassari, Roma, Milano. Sì, direi più che plausibile. La cosa nuova è che dalla parte del tabellone probabilmente potremmo avere una finalista inedita, perché a parte Cantù, le altre sono tutte possibilmente inedite. Evviva Dio, era ora. Per un certo senso sì. Sono anche curioso di un'altra cosa, vedere come assorbiranno le squadre, i giocatori, le 7 partite dal primo turno. Quello sono molto curioso. Sciocchezza mai vista. Anche sono io abbastanza d'accordo. Sono 7 partite nel primo turno, sciocchezza mai vista. Poi contiamo anche gli spettatori e i dati di ascolto. No, a parte quello, poi si rischia veramente quelli che arrivano in finale sono un po' sulle ginocchia. Si arriva, si arriva al brodo. Senti, ti aspetto presto, Davide. Così. Con piacere. Così condividi con me questi pronostici sbagliati, grazie. Va bene. ciao. Ciao, grazie. Grazie a Davide Pessina, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia. Noi naturalmente ci sentiamo domani alle 2 qui con tutti convocati. Adesso sto curando i tacchini e c'ho una faraona che se n'è andata, penso devo andare a cercarla qui nei prati. Il più ricco di un re intorno a te contadino. Sto togliendo i germogli a un gelso.